Lasceremo questa casa, le finestre con il sole, la terrazza con le rose e una stanza di parole. Lasceremo questo amore sulla mensola del bagno, non ne abbiamo più bisogno d'ora in poi. Lasceremo il nostro letto a chi vuole far l'amore, perché noi lo abbiamo fatto troppe volte con rancore. Scenderemo le valigie che ora sembrano pesanti, ma come erano leggere un anno fa. Io di qua, tu di là, è così che si fa quando due come noi per la noia si spaccano a metà. Altri noi, di altri giorni.